известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. What I want to communicate is the fact that bisogna tornare ancora all'intervista rilasciata un paio di giorni fa da Barack Obama alla televisione araba Al Arabia, perché contiene in realtà un messaggio sostanziale. Ascoltiamo un attimo. Certain common hopes and common dreams. And my job is to communicate to the American people. Dice: il mio lavoro è comunicare agli americani. Extraordinary people who simply want to live their lives. Che tra gli arabi ci sono personalità straordinarie in grado di dare un contributo formidabile alla modernità. We sometimes make mistakes, we have not been perfect. E che noi americani commettiamo degli errori, non siamo perfetti, ma sicuramente non siamo una nazione nata con un intento, un'impronta colonialista. That America had with the Muslim world as recently as 20 or 30 years ago. There's no reason why we can't restore that. And that, e che non esiste una ragione al mondo per cui l'America non riesca a ristabilire con il mondo arabo quella positività di rapporti che ha avuto fino a 20 o 30 anni fa. È una impronta precisa. C'è chi pensa che in questi giorni ci sia troppo Obama, no? Nella Macedonia globale. Alcuni di voi che abbiamo interpellato, più tardi ne parliamo riguardo alla discussione che abbiamo avuto, che abbiamo tuttora sui nostri siti Facebook, alcuni di voi pensano di sì, che ci sia troppo Obama, altri invece sono entusiasti. Quello che è certo è che l'insediamento di questo presidente ha dato uno scossone fortissimo alla scatola, no? Quella scatola dove sono conservate le tessere, diciamo così, degli equilibri globali, i relativi malfunzionamenti. È come se a un certo punto tutto d'improvviso si fosse rimesso in moto e anche a tutto vapore, con energie nuove, a dispetto di questa crisi trasversale, no? Che ci avvolge tutti, come se fossero state reperite in un certo senso nuove energie, nuove opportunità di dialogo che vengono d'improvviso intraviste anche grazie alle proposte che da qualche giorno arrivano dalla Casa Bianca. Ne parliamo più tardi e approfondiremo con un graditissimo ospite, Saro Capozzoli, anche i temi da questo punto globali, secondo la vecchia impronta di Jefferson Ming, no? In relazione a quello ad esempio che accade al dialogo est-ovest che sta andando in scena in queste ore al World Economic Forum di Davos. Ma fin d'ora comunque vorremmo parlarne proprio in relazione a questa iperattività americana nel tentativo di muovere le acque in questi complicati, preoccupanti, angoscianti scenari medio orientali, ma dove alcune cose stanno succedendo. Ad esempio è trapelata ormai sui media internazionali la notizia che Barack Obama e il suo staff stiano da giorni lavorando alla stesura di una lettera indirizzata all'Iran di Mahmoud Ahmadinejad, con il preciso obiettivo di rasserenare le relazioni con Teheran e aprire la strada a un dialogo tra i due paesi. Il quotidiano britannico The Guardian ne parla oggi approfonditamente con un articolo che somiglia anche un po' a uno scoop. Parla di un Dipartimento di Stato che dal 6 novembre, addirittura due giorni dopo l'elezione di Barack Obama, lavora alla stesura di questa lettera, una missiva di Obama che vuole costituire un gesto simbolico, scrive il giornale inglese, di apertura verso Teheran e rappresentare un autentico cambio di tono rispetto alla precedente amministrazione Bush, che invece considerava l'Iran come il portabandiera dell'asse del male. In questa lettera Washington vorrebbe assicurare il regime iraniano di non avere nessuna intenzione di rovesciarlo, ma di desiderare semplicemente un diverso atteggiamento da parte del regime iraniano. Si pensa che la lettera verrà indirizzata al popolo, all'intero popolo iraniano, probabilmente inviata direttamente al supremo leader religioso iraniano, che è l'Ayatollah Al-Khamenei, e che nonostante il tono conciliatore si chiederà all'Iran di mettere fine alle attività, le parole della lettera, che sarà un caso mondiale di attenzione, di mettere fine alle attività di sponsor del terrorismo. Ci sono già dei commenti attorno a queste prime indiscrezioni. Ne parla, per esempio, in un modo molto interessante sullo stesso Guardian un analista persiano che si chiama Saed Leilaz, che scrive che la lettera americana verrà accolta con particolare emozione, con particolare interesse in Iran. Saed Leilaz dice: se manderanno una lettera di questo genere, questo rappresenterà un passo decisamente in avanti verso rapporti, verso legami migliori, però bisogna stare attenti, non bisogna attendersi troppo presto una risposta troppo immediata, ci vorrà del tempo. Gli iraniani, il governo di Teheran si prenderà del tempo, cercherà di elaborare la risposta migliore possibile, anche perché ci saranno terribili dispute interne, dice ancora Leilaz, interne al sistema iraniano, dopo che una lettera di questo genere verrà ricevuta. Ci saranno molti radicali che non vorranno, che si opporranno alla eventualità di nuovi rapporti normalizzati tra Teheran e Washington, e in ogni caso il messaggio che l'Iran dovrà ricevere, non a caso insomma ci stanno lavorando da due mesi, dovrà essere estremamente chiaro riguardo alla intenzione di non voler distruggere il regime attualmente in carica. Aspettiamo e studiamo la situazione per vedere se questi 30 anni di gelo con l'Iran, grazie a Barack Obama, improvviso potranno davvero andare incontro a un disgelo, se non saranno solo slogan di cambiamento, se il discorso di aprire il pugno e trovare una mano tesa, insomma, se le parole buone di Obama e le reazioni sospettose ma comunque disponibili di Ahmadinejad troveranno un punto di sintesi. Nel frattempo l'inviato speciale della nuova amministrazione di Obama, George Mitchell, in Cisgiordania, ha lanciato un appello da Ramallah a consolidare il cessate il fuoco a Gaza e ha ribadito l'impegno di Washington a lavorare per la pace in Medio Oriente. Ha detto Mitchell in una conferenza stampa al termine di un importante incontro con il presidente palestinese Abu Mazen che è importante consolidare un cessate il fuoco duraturo e noi incoraggeremo gli sforzi messi in campo in questa direzione. Ha anche affermato Mitchell che la nuova amministrazione Obama è pronta a impegnarsi con tutte le proprie forze per una pace duratura nella regione, sostenendo una soluzione basata sui due stati, Israele e Palestina, che vivano in pace e in sicurezza. E per l'appunto queste sono solo alcune note, insomma, di tutti questi segnali che arrivano in queste ore dagli scenari di crisi del mondo. Ci sarebbe da dire, e lo diremo presto, anche di quello che sta per cambiare in Afghanistan e naturalmente in Iraq, con le relative exit strategy elaborate dalla nuova amministrazione. Però, come dicevamo prima, può darsi che il mondo, in un certo senso l'Occidente soprattutto, non sia preparato, no? ad accettare, ad incassare tutto questo attivismo, tutto questo iperattivismo, tutto questo presenzialismo verbale ma anche di azioni, di proposte, di movimenti, di team e di staff che si muovono uno con un obiettivo, uno con l'altro. Siamo abituati a tempi diversi. Noi abbiamo messo su Facebook una domanda di questo genere, vi abbiamo chiesto se c'è la possibilità di una Obama allergia e ci avete dato risposte molto interessanti di cui vi riferiremo tra poco, prima di compiere invece un piccolo obbligo. Ieri vi abbiamo parlato della scomparsa a 76 anni del grande romanziere americano John Updike, una colonna, se non forse la colonna centrale della letteratura americana degli ultimi decenni. I giornali americani hanno scritto molto, si sono spesi grandi firme e anche grandi, come dire, grandi descrizioni, grandi immaginari attorno a questa scomparsa dolorosa per tanti. Poi il New York Times oggi ha avuto un'idea migliore forse delle altre. Ha affidato in un certo senso a John Updike stesso la stesura del proprio necrologio in versi, come faceva lui spesso e volentieri, non senza ironia, come faceva praticamente sempre. È stata pubblicata questa breve poesiola scritta da John Updike, che noi alla meno peggio, e scusateci questo, abbiamo tradotto e vi proponiamo. Si chiama naturalmente Requiem. Mi è venuto in mente l'altro giorno che se dovessi morire nessuno direbbe: oh, che peccato, così giovane, pieno di promesse, di potenzialità ancora inesplorate. Invece, giusto un cenno, occhi senza lacrime, accoglieranno la mia preannunciata dipartita. La reazione in linea di massima sarà sul genere: pensavo fosse morto da un bel po'. Perché la vita è un sotterfugio malandato e la morte è reale, oscura, è grande. E il suo deflagrare si sentirà solo laddove avrà luogo. Sente molto bene, dice che va tutto molto bene la cantante che ci sta accompagnando qua sotto, ma sembrerebbe lo stesso a giudicare dalle reazioni iraniane. Hanno saputo naturalmente la lettera, li leggono anche loro i giornali, e prima che la lettera sia recapitata e il contenuto esaminato, però c'è già una sortita che ha avuto luogo proprio al forum di Davos, dove Manuchehr Mottaki, il ministro degli esteri iraniano, ha dichiarato che se l'amministrazione Obama cambia politica, non a parole ma nella pratica, questo è sempre l'accento che mettono dal loro punto di osservazione, troverà certamente nella regione un atteggiamento di cooperazione, e l'Iran non è escluso da questo generale atteggiamento della regione, ha precisato Mottaki. Quindi, come dicevamo in apertura, qualcosa si muove. Verso che cosa? Non è ancora precisamente chiaro, ma sicuramente degli avvicinamenti, dei posizionamenti sono in atto. Express Yourself, ormai il nostro già leggendario, tanto ce lo diciamo da soli, quindi possiamo dire quello che ci pare, spazio dedicato alla vostra partecipazione attiva e interattiva al programma. Vi sottoponiamo in linea di massima un argomento al giorno. Se siete presenti sull'indirizzario della nostra bacheca, che si chiama Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself o redazione Jefferson 2, e ne discutiamo insieme. Prendiamo atto, poi presto prenderemo anche più atto ancora, vedrete seguendo il programma che cosa ci abbiamo in mente. Comunque la vostra partecipazione a questo punto è un dato di fatto. Oggi vi abbiamo proposto il tema allergia Obama. Comincio a non sopportare più l'immagine quasi messianica che viene data di Obama, tutto quello che fa è sempre e solo perfetto, ha scritto infatti stamattina sul nostro sito uno di voi che si chiama Emanuele, E allora noi ci abbiamo ragionato, abbiamo detto parliamone. Obama è al lavoro, ci sono iniziative in moto, c'è chi come noi da lontano si sente un po' destabilizzato, c'è tanto, troppo gossip. E voi che ne pensate? Abbiamo chiesto a chi aveva voglia di risponderci, condividete quello che sostiene Emanuele, oppure siete ancora convinti che il pianeta sia fortunato ad aver scovato questo signore hawaiano di sangue misto? Allora, cominciamo con la raffica dei pareri. C'è Massimiliano che dice: penso che Obama abbia impresso una sterzata politica agli Stati Uniti, quindi è contrario, diciamo, al punto di vista di Emanuele, non ha per ora sintomi di allergia, avviando iniziative che fino a pochi giorni fa, epoca Bush, erano quasi tabù. Poi c'è Francesco che dice: viviamo in un mondo dove l'immagine è tutto, Obama è la figurina pop di questo inizio secolo, come lo erano stati Kennedy e Marilyn negli anni 60. Vuoi che i media non ci mangino sopra? Ancora un terzo messaggio di Vito che dice: noi italiani abbiamo un palato non tanto fino quanto a politica e manifestiamo il nostro entusiasmo per Obama un po' in modo provinciale. Devo dire però, aggiunge Vito, che finora tutti i segnali sono positivi. Finché non saremo delusi, perché smettere di sognare? Massimo scrive: non sono d'accordo, non sarà perfetto, ma almeno qualche nuovo input al mondo lo sta dando. Matilde: forse potrebbe essere vero che stiamo sopravvalutando Obama, ma sapete com'è? Fa un certo effetto vederne uno che non solo si muove, ma addirittura corre. Sandro: forse il fenomeno Obama incarna il desiderio, forse messianico, di porre rimedio al disastro economico, di perdita di valori, di violenza e ingiustizia incontrollata che viaggiano nel mondo. Ilaria: così di primo acchito Obama sembrerebbe il miglior compromesso tra l'uomo comune e il politico alla guida di un grande paese. Abbiamo un altro Francesco che dice: è interessante notare come all'interno di contesti democratici quello che sembra oggi fare la differenza sia la sola presenza di un singolo uomo. Direi messaggio su cui riflettere. Poi c'è Paola Francesca, che è nostra affezionatissima, scrive tutti i giorni, che ci scrive: mi trovo costretta a citare, il potere logora chi non ce l'ha e chi non ha altro da fare, e soprattutto chi ne è escluso, fa palestra e quindi fa chiacchiere. Mauro dice: ancora spero in Obama, sicuramente più multitasking di Bush, il semplificatore. Sonia dice: Obama sta facendo scelte coraggiose e decise. Alessio scrive: in effetti Obama viene idealizzato un po' troppo. Bruno dice: di slancio direi che Obama è un pacco, hai capito? Caro Obama, sei un pacco. E Dario dice: troppe aspettative, manca solo che pretendiamo di vederlo camminare sulle acque come quella pubblicità. E ancora, volando, correndo, Simone: più che fastidio si tratta di delusione, mi lascia perplesso il fatto che molta gente pensi che affidare il proprio destino a un solo uomo possa far star bene tutti e demandare, no? La delega. Manuel: Obama è un uomo, non un semidio o un semifreddo, qui spiritoso. E Emanuele: rimango convinto sostenitore della bontà dell'operato di Obama. Che vuoi dire? Vedo che se metti i cerchietti, dici. No, sto continuando a leggere questi messaggi che ci arrivano, direi, con ritmo frenetico. C'è per esempio Giuseppe che dice: è un fatto quasi inedito nel panorama americano, quindi è normale che se ne parli di Obama. Da parte mia apprezzo la novità, pur non essendo espressamente di quell'orientamento politico. Conclude, direi, in un modo salomonico: diamo tempo al tempo e lasciamolo lavorare. E prima di darvi l'appuntamento a più tardi, leggo il messaggio di Fabio, mi sembra significativo. Io penso che Obama sia un nero per caso. What I like. Oh. Zuccheria e Lavarone in Trentino. Una stagione fantastica. Peccato non esserci. C'è una proposta per tutti, ma soprattutto la combinazione giusta per tutti. Settimana bianca con Ski Pass a partire da 299 euro. Ehi, ho scio gratis! Info e condizioni su folgariaski.com oppure allo 0464 72 19 69. Il Sole 24 Ore presenta Studio La 24 Avvocati, il software creato per gestire in modo completo studi legali di qualsiasi dimensione. Rilevazione automatica dei tempi di lavoro, accesso al web, pianificazione, contabilità, studi di settore, integrazione dei contenuti e servizi editoriali del Sole 24 Ore come guida al diritto, l'ex 24, rassegna stampa, tutto in un unico ambiente di lavoro. Un unico prodotto, un unico contratto, un partner unico, il Sole 24 Ore. Studio La 24 Avvocati, automazione, controllo e performance dello studio legale. Scegli Top Line di TIM e avrai uno smartphone top di gamma e traffico e servizi inclusi. Vai su TIM.it. Palleggio frenetico, passaggio corto, palla che schizza a destra, a sinistra, in alto, no, in basso, fallaccio. La palla vola, finta di corpo, all'ala, al petto, magico recupero a centrocampo. L'ha recuperata, ma dove va? Dove va? Credit Reforma, con più di un secolo di esperienza, recupera i tuoi crediti nel mondo con efficacia, velocità e talento. Chiama il numero verde 800 425 325 oppure collegati a creditreform.it. Quando Credit Reforma entra in azione, non perde mai la palla. Una soluzione ai problemi dell'edilizia oggi. Il Legno, Fiera di Verona 26 febbraio 1 marzo. Mostra, incontri tecnici, dimostrazioni operative per imprese, carpentieri, progettisti. Legno e edilizia, 26 febbraio 1 marzo, veronafiere.it. Borse in diretta. Buon pomeriggio, borsa americana ancora in calo dopo un'apertura in ribasso, Nasdaq meno 1,78%, Dow Jones meno 1,31%, e anche le borse europee aggravano i loro ribassi dopo l'apertura negativa di Wall Street. Parigi meno 2%, Francoforte meno 1,95%, mentre Londra meno 2,69%, non fa eccezione Milano con l'Inbintel che cede l'1,41%, e l'S&P MIB l'1,71%. I maggiori ribassi: Bulgari meno 5,69%, Fondiaria Sai meno 4,93% e Telecom Italia meno 4,49%. I maggiori rialzi: Italcementi più 3,41%, Parmalat più 1,81% e Finmeccanica più 1%. In chiusura i cambi: euro su dollaro 1,30,72. Tutto. Ora, Giramondo, il tuo viaggio? Da non crederci, bellissimo. Si vede dalla faccia. E questo livido? Ah, niente. Continuava a darmi pizzicotti per essere certo di non sognare. Con Lufthansa, oltre 100 destinazioni nel mondo a prezzi da sogno. Ad esempio, Stati Uniti da 428 euro o Asia da 468, tutto incluso. Prenota subito e voli fino a maggio 2009. www.lufthansa.com. Lufthansa, there's no better way to fly. Dove siamo? Da Ottica Avanzi. E cosa ci fa qui? Cambio questi cocci di bottiglie con delle lenti sottili che mi fanno gli occhi belli. Quante diatrie le mancano? 6 diatrie uguale 60% di sconto. Allora lo vede lo sconto. Lo so a memoria. Ogni diatria vale il 10% di sconto sulle montature delle migliori marche. Vale la diatria più alta fino al 22 marzo. Brava. Il numero verde di Avanzi è 828 25 25. Cosa fa? Lo scrivo in grande per quella talpa di mia sorella. Ingegnoso. Avanzi. Libera gli occhi. Attenzione, messaggio a tutti gli imprenditori. Nasce numeroverde.com, il numero verde ricaricabile senza canone e senza alcun costo aggiuntivo. Numeroverde.com. Con pochi centesimi al minuto puoi incrementare il tuo business e rafforzare l'immagine della tua azienda. Acquista subito la tua prima ricarica online su www.numeroverde.com. L'attivazione è immediata e gratuita. Per informazioni www.numeroverde.com o 800 12 90 91. Numeroverde.com. Il numero per fare i numeri. Nel nuovo numero di 24, il magazine del Sole 24 Ore. Scuola di Bontà, il corso per milionari che insegna a donare con efficienza. Lezioni fuori classe, debutto online per il grande coreografo americano Merce Cunningham. In più, i paradisi fiscali si reinventano sul piccolo schermo. 24, domani in regalo con il Sole 24 Ore. State ascoltando un programma offerto da cliccalinear.it ed entra nella tribù. Linear, assicurazioni in linea con te. Jefferson 2, l'arte della svolta. Dunque, vi do un numero, lo dovreste conoscere, è 349-238-6666, tenetelo presente, guardate che gli sms sono sempre in funzione, lo possono essere tanto più utili adesso perché abbiamo in studio una graditissima presenza, quella di Saro Capozzoli, un imprenditore fondatore di una società che si chiama IESA, una società di consulenza per aziende italiane che agiscono, vogliono fare affari in Cina, è una persona che vive in Cina, come sapete, da 20 anni, prima a Pechino, adesso a Shanghai, e che da 2 anni circa, cioè da quando esiste questo programma, è diventato anche una specie di inviato speciale, e che quando poi torna dalle parti nostre piacevolmente ci viene a trovare in studio. Ciao Saro. Ciao a tutti. Allora, il numero di prima 349-238-6666 se avete domande immediate brucianti. E caro Saro, tu devi sapere una cosa, le modifiche, le evoluzioni del programma hanno causato un forte caso nazionale, radiofonico nazionale, di malinconia. E di nostalgia, perché hanno detto la Cina, come ce l'avete raccontata, ne abbiamo parlato per 2 anni, dove finisce? Poi poco a poco si sta capendo che il panorama del programma tiene in gran conto questa realtà, anche grazie ai contributi di persone come te, ma l'interesse, la tensione verso questo universo, Saro, è e continua a essere grandissima. Certo, non si può ignorare la Cina, ecco. Non può essere però solo l'unico riferimento o argomento, perché il mondo ormai è interconnesso e bisogna parlare un po' di tutto, non solo di Cina che o è proprio di Stati quello Uniti. Che abbiamo ecco. pensato fosse ora di fare. Dunque abbiamo diverse cose di cui discutere e parlare, poi daremo voce anche ai nostri ascoltatori. So che c'è anche una piccola polemica che vogliamo sollevare, lo faremo tra pochissimo. Prima però vorrei un tuo commento a quello che sta succedendo al Forum Economico Mondiale di Davos, con questa presenza protagonistica proprio di Wen Jiabao, con parole anche di grande interesse, mi sembra, di grande empatia verso il resto del mondo. Cosa dici? Certo, quando in occasione delle Olimpiadi, verso la fine, noi abbiamo parlato dell'esame di maturità della Cina, ora posso dire che la Cina adesso sta facendo il primo esame all'università, cioè il primo approccio al mondo, una situazione completamente cambiata da qui a un anno. È entrato nel club, insomma. È entrato nel club e incomincia a far sentire la propria voce pesantemente, in una maniera molto pacata, ecco, perché da quello che si è visto, si è letto. E posso dirti una cosa? Mi sembra che al di là di tutte le analisi che fanno gli espertoni, ma poi quando prendono la parola i veri capi, insomma, del potere cinese, il tono è quello che dici tu, è sempre estremamente pacato e rassicurante. È difficile che si esprimano, no? con toni ben frequenti invece in Occidente, magari di una certa aggressività o di un mettere in guardia. C'è sempre un tentativo di, come dire, abbassare, no, il livello dello scontro, o sbaglio? Sì, i cinesi non amano far polemizzare o attaccare direttamente, no? Fanno capire le proprie ragioni, cercano appunto di perché gridando non si riesce appunto a far capire quello che si vuol dire, quello che purtroppo in Italia non si capisce. Quando vedo queste tribune elettorali o comunque trasmissioni dove si grida, non si capisce più nulla, cioè secondo me avremo da imparare da certe trasmissioni cinesi dove tutti dicono la propria, hanno il loro spazio e il telespettatore ha la capacità, è messo in grado di capire quello di cui si dice, perché molte volte in Italia quando vengo qua non riesco a capire, io non è che vengo sono sempre qua, ma quando vengo qua a volte non riesco a capire che cosa accade, perché mi ricordo le urla, le grida, certo. Qualcuno che si alza, se ne va e non si riesce la politica aspettando, ecco, sì. Senti, ma in sostanza quindi il messaggio di Wen Jiabao al mondo è al mondo economico è un messaggio essenzialmente ottimista. Ottimista è molto importante, ma la cosa di cui non ho letto sui giornali, ho visto che una parte che non ho letto, e l'attenzione della Cina anche verso i paesi in via di sviluppo, che tipo l'Africa e il Sud America, lui ha detto molto chiaro: non ci dimentichiamo di loro, perché uno sono il nostro mercato del futuro, cioè i cinesi pensano già al futuro mercato, ma anche paesi che hanno la maggior parte delle materie prime. Cioè, questo è un qualcosa che il Wen Jiabao ha detto durante questo evento ed è passato un po', diciamo, sotto silenzio. E certamente la Cina, la nostra impressione che abbiamo appunto lì in Cina, e che sarà poi da traino, ecco, da traino, ma l'abbiamo già capito da un po' di tempo, perché la differenza fra quello che succede in Europa, in Occidente e in Cina è che qui si parla e si incomincia ad agire, lì si è parlato, si è agito nello stesso momento. Con grande rapidità. Grande rapidità. L'insediamento della nuova amministrazione americana nella persona di Geithner, il nuovo segretario del Tesoro, ha avuto invece un atteggiamento piuttosto, come dire, tutt'altro che guardingo ed educato, piuttosto aggressivo nei confronti della Cina. Ci sono cominciate a partire delle polemiche attorno alla valuta cinese, alla sua perfetta credibilità, alla in vista evidentemente di una circolazione globale ormai matura. Che cosa pensi a questo riguardo? Beh, adesso l'America in certi settori devono un attimino stare attenti anche un po' alla parte più conservatrice, no? Ecco, diciamo, quelle che non amano molto la Cina, però che purtroppo comunque non si può ignorare. Teniamo conto che la Cina la si può vedere come un'isola bancaria. Cioè un mondo a parte, uno dei motivi per cui non è stata colpita a livello finanziario e bancario come è successo da noi, e anche perché appunto grazie alla non convertibilità del RMB. Ecco, ora la Cina comunque non è che ha detto adesso me ne sto tranquillo, tiro remi in barca e sto a guardare, no, continuano nel loro processo di integrazione col mondo. E cos'è che non piace agli americani? Probabilmente ci sono delle cose che non si dicono sui giornali. Il fatto è che la Cina ha detto in certi ambienti che vorrebbe pagare per esempio il petrolio in RMB, nella valuta locale. E questo è un qualcosa che manda in bestia gli americani. Ecco. E questo è un qualcosa che potrebbe veramente cambiare gli scenari nel mondo. Cioè il fatto di poter pagare in RMB, fino a pochi anni fa la Cina era quasi indipendente, no? dal petrolio, si è trovata anche la Cina coinvolta nel questo alto e basso del petrolio. Adesso questo è un qualcosa che è un fuoco che sta sotto la cenere, no? Che prima o poi verrà fuori, ecco. So che questo articolo pubblicato dal Corriere della Sera a firma di Federico Fubini qualche giorno orsono ti ha un po' fatto arrabbiare. In realtà, come ti dicevo prima, questo articolo è la punta di un iceberg, perché da qualche tempo sui giornali italiani va di moda, diciamo così, va per la maggiore un ritratto di una Cina post-boom, di una Cina preoccupata, di una Cina da alti e bassi, di una Cina in mancanza o in carenza di sicurezze. Tu hai letto questo articolo titolato "Aziende in fuga da Cina e India, i costi in aumento fermano le delocalizzazioni, meno conveniente trasferire i lavori in Asia", ne abbiamo anche parlato anche più volte con te, e non sei convinto di quanto è uscito. Prendi posizione. Sì, sono d'accordo quando si dice appunto che è una moda, ma è una moda che volte può essere anche molto pericolosa, perché danneggia il nostro paese, danneggia l'Italia, nel senso che il fatto di dire che ci sono aziende che stanno scappando dalla Cina perché i costi stanno aumentando eccetera è puramente falso. Chi non è vero perché io sono lì, ho visto, abbiamo progetti che sono partiti l'anno scorso, l'anno precedente, che hanno avuto un'accelerata, non solo per me ma in generale. Qualcuno che forse era meno pronto oppure ha tentato, ha provato, quindi facendo dei passi non corretti sul mercato sta un attimino alla porta a guardare, ma il problema è perché hanno più problemi interni. Ma chi è già presente in Cina e che punta quel mercato resta, e anzi punta sempre di più. Io ho sentito di aziende invece che vogliono spostare un investimento dagli Stati Uniti alla Cina, che vogliono attaccare ad esempio il mercato, si sta pensando di acquisire catene di negozi perché è un mercato. Cioè, il fatto è come dire essere in Messico, rinunciare non so al mercato americano. Te ne faccio una al volo, arrivata da un ascoltatore che proprio chiama in causa i giornalisti italiani, nella fattispecie Federico Rampini, un nostro amico, frequente ospite, che scrive in un articolo, secondo Giacomo, in un articolo Rampini diceva che il fantasma del 29 aleggiava più nella società cinese che in quella americana, quindi fa un po' eco questo articolo. Esiste secondo te questo pericolo economico di un crack memorabile? Ma è un crack memorabile di un paese che ha due trilioni di riserve monetarie, banche che hanno un'esposizione di solo 10 miliardi di dollari rispetto agli Stati Uniti. Cioè, io non so, adesso non conosco personalmente Rampini, ho letto qualcosa di lui, ma anche di altri. Io penso che si fa a gara a cercare la sensazione di cercare di creare il mostro negativo, no? Di creare, perché c'è un certo catastrofismo negli ultimi mesi. Mi è successo anche prima delle Olimpiadi, di sentire dei giornalisti italiani in Cina, che speravano nella appunto in qualcosa, in qualche evento clamoroso, no, durante le Olimpiadi, per poter scrivere, no? Ed è, diciamo che è immaturità questa, no? Ecco, in generale io dico che ci sono giornalisti che si riferiscono ad articoli molto spesso, come nel caso di questo articolo dell'11 gennaio, no? Passo sul Corriere, articoli di McKinsey che parlano di crisi, e si prende solo una parte dell'articolo, ciò che fa più comodo, si dimenticano le altre cose favorevoli alla Cina. Questo non è corretto. Ci scrive Giancarlo Lavarese, ma poi diamo la linea al traffico. Un saluto a Saro. Ma secondo me la Cina prenderà la laurea, si ispira a quello che dicevi poco fa, quando non ci sarà più la pena di morte. Condividi? In questo caso è un passo che dovrà fare la Cina prima o poi, come lo dovranno fare anche gli Stati Uniti. No, quindi certo. Non è che il pulpito da cui si quelli parla grossi, molto spesso, ecco, quindi sì, certamente, io credo sono molto più ottimista in questo cambiamento in Cina che negli Stati Uniti. Chi arriva per primo, il famoso sorpasso di cui per 2 anni abbiamo parlato. Ci risentiamo con Saro Capozzoli tra qualche istante. You're my good thing, baby, and I'm still glad that you're mine. Well, I feel so special, darling, when I hear you call my name. We give up on love now, baby, and be a low-down, dirty shame. Well, the love we have now, baby, can still be out of sight, and I won't give up this good thing, no, without a fight. Without a fight. Siamo qui con Saro Capozzoli, siamo qui in una puntata di focalizzazione, focus sulla Cina, insieme al nostro ospite che da tanto tempo funge da inviato in Cina per Jefferson. La Cina vuol far valere la voce dell'autorevolezza più che quella dell'autorità, ci scrive un ascoltatore su SMS. Cosa ne dici, Saro? Beh, qui mi sento di parlare di Confucio, no? Perché è nello stile, nella filosofia cinese c'è di Confucio, quello di appunto di fare le guerre senza usare le armi, e la Cina è molto brava in questo, cioè quello di convincere, come quello che è successo con Taiwan ad esempio, no? Stanno praticamente ottenendo quello che volevano senza sparare un missile, ecco, ed è quello che sta succedendo in tanti settori, quindi... Dunque, vediamo, Gianluca mi sembra più critico, scrive: buongiorno, diciamo che se non nascondevano lo scandalo del latte forse le Olimpiadi non sarebbero andate così bene, quindi riaffiora il problema, che tra l'altro viene risvegliato su Facebook anche da Fabio, che ha mandato una missiva per te dicendo: mi interesserebbe sapere da Saro qual è la situazione dei media indipendenti in Cina, quindi torna, riaffiora questo argomento, si sa tutto e quello che si sa è quello vero? Beh, il discorso del latte, stiamo parlando di una questione particolare per, diciamo, come dire, abbiamo la peste suina in Sardegna, allora non facciamo l'Expo 2010, no? 2015. Certamente è un problema che, ecco, è stato verificato, che qualcuno ha coperto questo scandalo e qualcuno ci ha perso anche le penne, no? Ci sono state delle condanne a morte. Diciamo che certo. È comunque un paese non maturo in certi settori, ma però quando si rendono conto degli errori. Apro una parentesi, sono condanne a morte effettive? Effettive, vengono eseguite subito dopo la sentenza. Certo. Cioè, quindi raggelante, ma è così. Raggelante, ma è così. Mm. Senti, prima che la Cina svalutasse lo yuan nel 95, il cambio era un dollaro per 5, oggi siamo a 1 per 7. Prima o poi la Cina sarà costretta a rivalutare. Cosa dici? Beh, diciamo che la svalutazione è venuta nel 94, il primo gennaio 94, ero presente lì, mi ricordo che sono diventato ricco all'improvviso perché prima era 5,7 RMB per un dollaro, era 8,7. Quello che è successo negli anni successivi c'è stato proprio, diciamo, il non libero mercato, nel senso il cambio è stato deciso artificialmente dal governo. Quello che c'è adesso è un cambio che è agganciato ad un pool di monete, no, internazionale. E diciamo la Cina sta entrando gradualmente nella normalità, quindi si sta scendendo il valore e si sta avvicinando probabilmente ai valori reali e non si vede la necessità, il motivo per cui debba adesso svalutare quando non l'ha fatto durante la crisi asiatica del 97, quando aveva diritto di farlo ma non l'ha fatto. In realtà continui a parlare di grandi misunderstanding, di grandi equivoci e forse di una certa superficialità di comprensione nei confronti della Cina, o sbaglio? Mi sembra sia un po' una tua preoccupazione costante. Purtroppo chi parla di Cina molte volte, c'è un amico che fa sempre un esempio, che c'è chi prende un aereo dall'Italia e vuole andare in Nuova Zelanda, c'è un pacchetto che ti fa fare un stopover di 3 ore a Shanghai, poi riprendi un altro aereo e vai in Nuova Zelanda. Dici, no? Un libro, tu. Basta che in 3 ore si torna in Italia e si scrive un libro. Certo. Io ho visto gente che ha fatto veramente questo. Certo, no? Certo. Ho capito, forse ho anche capito di più. Senti, Gianluigi su Facebook ha scritto, vorrei chiedergli cosa ne pensa della cosiddetta carta 08 e relative conseguenze in Cina e fuori. La carta 08 è un documento firmato, rievocando la carta 77, in cui si chiede al governo libertà religiosa, democrazia e rispetto dei diritti umani. Cosa vuol dire? Carta 08 viene dopo un'altra carta firmata nell'88, quindi prima di Tiananmen, preparata da intellettuali che chiedevano più democrazia, ma anche era un attacco alla corruzione che c'era in quel momento. Infatti dopo un anno è scoppiato Tiananmen e tutto quello che è successo. Da qui poi è venuta fuori l'apertura cinese, c'è una specie di patto sociale, ok, vi faccio fare i soldi, vi permetto. Prima non era così, non c'era il libero mercato, non c'era, però se lasciate al governo governare e a fare le regole e le leggi. Adesso questo succede, questo evento di 300 e passi intellettuali, anche famosi, che hanno firmato questo documento, un evento importante, che un fatto che ricordare al governo certi impegni e certe regole. E certamente non sarà un qualcosa che scatenerà un'altra piazza Tiananmen, però diciamo è un fatto positivo che questo accade e che sia apparso anche nei media cinesi. Questo è un qualcosa di positivo. Tempo tiranno, dunque, almeno tante altre lettere stanno arrivando. Vorrei sapere come fa la Cina a dichiararsi comunista, perché queste sono cose magari che richiedono un dibattito più lungo. Invece un aggiornamento su Expo 2015, che aria tira, le cose Expo 2010, Expo 2015, le connessioni tra i due appuntamenti. L'Expo 2010, che praticamente ero pochi giorni fa a Shanghai, i lavori stanno andando avanti, 6 mesi fa non c'era nulla quasi e adesso ci sono già i capannoni praticamente. La differenza che vedo è che mi sembra che qui in Italia si stia un po' annaspando, perché quello che capisco un po' dalle varie cose, c'è una connessione tra i due eventi. Expo 2015 sta guardando Expo 2010, ecco, io spero che guardi un po', penso che sia all'Expo 2010 e spero che anche che si coinvolgano aziende cinesi, e io sto qui un po' provoco un po', no, in questo evento qui in Italia, perché potrebbe essere una soluzione anche per probabilmente trovare i soldi che mancano. Secondo è avere l'expertise di quello che succede appunto adesso, accadrà in Cina, per poter avere un evento eccellente anche qua in Italia. Ti pigliano in giro, c'è chi scrive ma voi chiedete all'oste Capozzoli se il suo vino è buono, insomma, che la Cina che ci racconti. Vedi che il sospetto italiano è duro. Ma noi siamo stati premiati l'anno scorso dall'ambasciatore cinese qui in Italia per l'attività che abbiamo fatto, non tanto per quello che abbiamo fatto, abbiamo portato tanti investimenti, ma anche perché come azienda siamo stati riconosciuti come un'azienda che ha anche sconsigliato a volte degli investimenti in Cina. Siamo siamo, diciamo, non siamo, noi certamente non portiamo i nostri clienti a buttarsi nel pozzo, certo. Ecco, noi abbiamo costruito il nostro nome anche cercando di guidare, e molto spesso abbiamo consigliato anche di andare in Serbia o in India o da qualche altra parte. E questa la conosci meglio di me, Vivian Su, è la nostra sigla finale. Oggi abbiamo avuto ospite in studio, come sempre graditissimo, Saro Capozzoli, grazie, buon ritorno in Cina, perché tu sei qua, perché in realtà sono le tue vacanze di Capodanno. Certo, certo. Arrivederci e spero di vedervi una volta voi a Shanghai. Oh, è l'anno del bue, del bisonte, del toro, qui c'è un dibattito. Del bue. Dal golden bue. Va bene, ci vediamo a Shanghai. Jefferson 2, l'arte della svolta, Stefano Pistolini, redazione Emiliano Enrico, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Pietro Lacorte. Gli indirizzi, la mail è Jefferson2, numero @radio24.it, su Facebook ci trovate a redazione Jefferson2, oppure, per parlare direttamente con noi, oppure la bacheca che è Jefferson2 Radio 24 Express Yourself, che è dove si dibatte. Andiamo in replica a mezzanotte in diretta alle 4 domani qui su Radio 24. 原来变去的只是游戏。